Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La primavera successiva, però, dopo un periodo di allontanamento, iniziò a mostrare interesse per me. Insomma, forse finalmente aveva capito che mi piaceva e che io piacevo a lui. Una sera, una delle tante in cui mi riaccompagnava e stavamo ore sotto casa mia a guardarci negli occhi, trovai anche il coraggio di dargli un bacio, veloce, a fior di labbra. Era la primavera della quinta liceo e io, con il suo sapore sulla bocca, partì per la gita a Berlino. Sono Sara, ho 22 anni e sono di Arona, studio lettere moderne a Milano e da grande mi piacerebbe fare la giornalista. Ci sono delle storie che nascono storte, anzi no, nemmeno storte, perché le storie che nascono storte sono un'altra cosa. Ci sono storie che nascono impossibili. Si dovrebbe dire che non nascono, in realtà se ne parliamo è perché qualcosa, un seme è stato gettato, qualcosa è germogliato, però già in partenza si sa che quella storia è impossibile, perché nemmeno perché lui è sposato, perché da un matrimonio si può tornare indietro, si può recedere, ma perché lui magari vive davvero dall'altra parte dell'oceano, perché lui è una rockstar e quindi non lo vedrete mai, oppure perché lui ad esempio è un prete. 349-238-6666. Il vostro amore impossibile. Ma per quando dico impossibile intendo veramente che è proprio inverificabile, cioè che non può accadere. Va bene, se mi scrivete che lui è sposato, c'ha 3 figli ed è blindatissimo, troviamo un modo per crederci. Però per amore impossibile in realtà vorrei proprio oggi parlare di quegli amori che proprio sulla carta, in partenza, è già no, non puoi. E non quella cosa che, ma però ci potrebbe essere una via di fuga, c'è sempre una via di fuga più o meno da tutto. Oggi però stiamo proprio dritti secchi lì, il vostro amore impossibile, numero per mandare gli sms è 349-238-6666, sono le 16.10, continua a piovere a Milano, è aprile, è il 22 di aprile, questa è Radio 24 e oggi qui a Voi Siete Qui raccontiamo la storia di Sara. Arrivano altre storie sul profilo Facebook del programma, per cui Lucia dice, per fortuna, sì, ho avuto degli amori impossibili. Mi piace pensare che se si fosse realizzato sarebbe stato un amore ugualmente impossibile, ma perché deludente. Francesca, sì, ce l'ho avuto, un amore impossibile, poi a un certo punto è scattato qualcosa, ho detto basta e sono diventata più forte io. Una storia come questa, però vorrei capire chi è lui, chi è lei e chi siete voi. 349-238-6666. Questa è Sara e questa è la sua storia. Avevo quasi 18 anni quando l'ho conosciuto. Come faccio ancora adesso, frequentavo l'oratorio del mio paese a quel tempo, quando Daniele, seminarista ventenne, venne assegnato alla nostra parrocchia a fare quello che io chiamo stage dei preti. Insomma, veniva nei weekend a dare una mano. Avevo una specie di fidanzato quando l'ho conosciuto, forse per questo nei primi tempi lo ignorai. Poi una sera Daniele diede un passaggio a me e a una mia amica. Non ricordo cosa mi disse, ma so che all'andata ero seduta dietro e al ritorno insistetti per stare davanti con lui. E da allora non abbandonai per molto tempo quel sedile. Daniele è una persona che ti conquista con un sorriso. Non è particolarmente bello né simpatico, ma si fa voler bene da tutti. E io non sono stata un'eccezione. All'inizio ero molto affascinata e lui si apriva con me e mi raccontava molto della sua vita. Ricordo che dopo appena 2 mesi, al mio compleanno, mi prendeva una morsa allo stomaco ogni volta che sorrideva un'altra. Però non avevo ancora capito di essermi innamorata di un amore sbagliato, ingiusto, a senso unico. Col tempo diventammo molto amici. Questa contemplazione, questo bere la sua presenza, mi ha saziato per quasi 2 anni. Lui un po' mi dava retta e un po' mi dimenticava, e in questo modo non faceva altro che rendere più tenace il mio amore. La religione lo considero un aspetto abbastanza importante nella mia vita perché da quando sono ragazzina comunque che la coltivo ed è un elemento, diciamo, molto importante per la mia vita anche adesso, in particolare nei momenti di difficoltà. La primavera successiva però, dopo un periodo di allontanamento, iniziò a mostrare interesse per me. Insomma, forse finalmente aveva capito che mi piaceva e che io piacevo a lui. Una sera, una delle tante in cui mi riaccompagnava e stavamo ore sotto casa mia a guardarci negli occhi, trovai anche il coraggio di dargli un bacio, veloce, a fior di labbra. Era la primavera della quinta liceo e io, con il suo sapore sulla bocca, partii per la gita a Berlino. Al mio ritorno lui mi disse che gli ero mancata e aveva in mano per me una lettera. Io però gli risposi che a Berlino avevo baciato un ragazzo, Matteo si chiamava, e che forse ci saremmo messi insieme. Lui allora ritirò la lettera e qualche giorno dopo me ne scrisse un'altra, dai toni pacati. Piano piano ci allontanammo, ormai non mi riaccompagnava più a casa. Era come se dopo mesi di attesa, di desiderio, di amore totale, quando stavo per ricevere qualcosa, avessi avuto paura o semplicemente mi fossi resa conto di quanto fosse una relazione sbagliata quella. Che futuro poteva mai avere una storia con un seminarista? A chi mai l'avrei potuta raccontare? Diciamo che molti lo sapevano, ma facevano finta di non saperlo. Qualcuno lo sapeva e mi diceva che stavo sbagliando. Quella con Matteo era una storia normale. Lui faceva il liceo con me, potevamo uscire tutti i pomeriggi e anche la sera. Dopo la maturità partii per 20 giorni in America Latina. Tra i miei amici c'era anche lui, c'era anche Daniele. Mentre non c'era Matteo, invece. Furono 20 giorni di sguardi, di carezze furtive, di piccoli rimorsi, piccole gelosie. Sul volo di ritorno, nella mia testa, Matteo non c'era più, ma sulla mia pelle c'era l'odore di Daniele. Ricordo che però, appena atterrato in Italia, mi battei una mano sulla fronte e pensai, ma cosa diavolo ho fatto? Esattamente 24 ore dopo, Matteo mi diceva che mi amava e io gli rispondevo che anch'io. Lentamente, il filo che legava me e Daniele si è allentato, fino a spezzarsi. Pensavo che non l'avrei tolto mai dal mio cuore, invece non è stato così. Non è bastato il fatto che se ne andasse dal mio paese a cancellare Daniele, che non si facesse più sentire, che mi ignorasse. A volte ritorna, ma fa parte del passato, degli errori che ti rendono quello che sei, che ti permettono, ad esempio, di metterti poi con un altro seminarista, suo compagno, e di costruire con lui una bellissima avventura che profuma di futuro. Ma questo, appunto, è un'altra storia. Daniele mi ha insegnato la differenza fra l'essere una stampella per qualcuno ed essere amata. This is not a love song. Happy to have, not to have, not big businesses, very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. Gli amori impossibili sono forti proprio perché sappiamo che sono irrealizzabili. E ci attraggono, sempre. Secondo me però non succede solo con l'amore. Esiste una strana forza misteriosa che ci attira verso ciò che non abbiamo e forse non potremmo avere mai. Spesso chi è molto strutturato, ad esempio, vorrebbe essere più creativo. E chi è creativo vorrebbe essere più ordinato, come gli americani che amano l'Europa o gli italiani che amano l'America. E di esempio ovviamente ce ne sono una marea così, ma non solo. Ad esempio se mi penso a quando ero bambino, mi ricordo perfettamente che quando avevo in mano un cono alla fragola, volevo assolutamente quello alla crema che aveva quello lì, sull'altalena. E se passeggiando con i miei vedevo un altro bambino sulla sua biciclettina arancione, entravo in uno stato di disperazione assoluta, perché la mia era verde. Con l'amore però questa curiosa caratteristica degli esseri umani, se è possibile, peggiora. Un po' come Romeo e Giulietta o Anna Karenina. E di solito non porta benissimo. Può capitare anche di innamorarsi di qualcuno che non si conosce affatto, come un musicista, appunto, un cantante, un'attrice o un tronista. E siccome nessuno ha mai capito niente dell'amore, non si può nemmeno dire che siano amori sbagliati. È solo che sembrano sbagliati. Un po' come quello di Sara. Quello che so è che spesso ci innamoriamo di qualcuno diverso da noi, qualcuno che ha qualcosa che a noi piacerebbe avere, tipo una caratteristica fisica o del carattere soprattutto. Ci innamoriamo di qualcuno che a noi un po' piacerebbe essere. E chi a sua volta si innamora di noi vorrebbe possedere non esattamente noi, ma quelle nostre caratteristiche che ci vengono invidiate. Ecco, è un po' come se l'amore fosse una forma nobile di invidia, un'invidia utile, perché ci aiuta a migliorare, a diventare più simili a ciò che vorremmo essere, una specie di contagio. Per cui una persona malinconica che si innamora di una persona divertente è perché vuole farsi una risata in più, non vuole qualcuno che la faccia ridere, vuole solo imparare a farlo. È attratta da chi ne è capace. Non lo so, Io credo che succeda così. O forse lo spero e basta. A me è capitato varie volte. Mi sono innamorato di donne più sicure di sé di quanto lo fossi io, o più sensibili. E stando con loro io forse sono diventato una persona migliore. Ma l'amore più importante della mia vita, però, quello più memorabile, è stato per una cantante. Si chiama Maria Luisa Veronica Ciccone. Madonna. Un amore platonico, chiaramente, ma ero ragazzino, quindi mi bastava. Lei era ancora nel periodo di Like a Virgin ed io ero un primo della classe un po' sfigato. I miei compagni ascoltavano heavy metal mentre io ascoltavo la musica italiana e mi rendevo conto che ero troppo perfettino. Lo vedevo da come mi trattavano con i guanti bianchi anche quando c'era da fare le squadre per giocare a pallone. Nessuno mi prendeva in giro, ma pensavano che fossi molto educato e poco adatto allo sport nel fango. Ecco, forse pensavano che fossi troppo educato, troppo regolare. E allora ho cominciato a pensarlo anch'io, semplicemente. E visto che l'heavy metal proprio non riuscivo ad ascoltarlo, decisi di provare con Madonna, che era comunque una tipa un po' fuori dagli schemi, no? Si vestiva strana, cantava cose che le mamme non capivano. E mi sono innamorato di lei. E credo di essermi innamorato di lei perché mi faceva sentire un po' sporco. Mi faceva sentire più grande, sì, ma mi faceva sentire che si potevano indossare giubbotti di pelle nera, che si poteva rispondere ai genitori e mangiare la cicca con la bocca aperta e addirittura fumare le sigarette. È stato bellissimo il tempo in cui c'era una parte di me che aveva bisogno di non essere perfetto e si chiamava Madonna. Non so se il mezzo influisce su come scriviamo o su chi siamo, però devo dire che su Twitter arrivano messaggi spesso molto divertenti, non dico più degli SMS, però molto divertenti. Su Twitter mi scrive geometrico, non so chi sia, che scrive questo messaggio: uccelli di rovo ancora. 349 238 6666, ho il profilo Twitter del programma che è Voi Siete Qui R24. Amori impossibili, ma amori realmente impossibili. Ad esempio, Rosa, mi spiace, ma da anni sono innamorato a cotta del mio migliore amico, a sua volta fidanzato da anni. Per noi non è un amore impossibile. Noi vogliamo una roba tipo un prete, oppure tipo sono innamorato a cotto di T-Paul, ufficiale vulcaniano imbarcata sull'Enterprise A anno 2232 di Giovanni di Trieste. È abbastanza impossibile, visto che non parlo dell'attrice, ma proprio del personaggio. Quindi è un doppio salto mortale. 349-238-6666. Tutto perché Sara ci ha raccontato una storia in cui è successa una cosa, che era innamorarsi di una persona che in teoria aveva preso un'altra strada, ma se non ho capito male ha rifatto, diciamo, non lo stesso errore, ma ha ripercorso la stessa strada. Pronto, Sara? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Dove ti trovi? Sono a Milano, in università. Stavi studiando, quindi? Facevo finta, sì, abbastanza. Mi ricordi che cosa studi? Lettere? Studio lettere moderne, sì. Lettere moderne. Quanto ti manca? Mi mancano 3 esami e la tesi. Ma a cosa, scusami, alla triennale o alla... Alla triennale, quindi tu hai 22? 22 anni. Sara, scusami, ho capito male se quando tu chiudi la storia dici che di fatto ti sei innamorata di un altro seminarista? No, hai capito proprio bene. Ah, ok, ma aspetta, facciamo un passo indietro. Tu li hai cambiati i nomi, vero Sara, delle persone partecipanti? Sì. Ok, benissimo. Alcuni sì. Ma ok, diciamo quelli fondamentali sì. Esatto, okay. Io non l'ho cambiato. Il tuo non l'hai cambiato e ti ringrazio. Invece, quindi adesso ne possiamo parlare di questa cosa? Cioè, stai avendo lui è un ex seminarista? Esatto, lui adesso è una persona che sta lavorando, che non è più in seminario e sta facendo una vita normale da laico. Ma per colpa tua? No, per colpa, nel senso che però diciamo è nato da lì o il fatto di mollare? No, lui ha fatto una scelta che è stata quella di uscire. Mi sembra, scusi Sara, questo mi sembra proprio, cioè, come se lo stessi spiegando a lui. Oh, guarda che non sono io, lo decidi tu però, giusto? No, ma perché infatti è stata una scelta molto chiara. Cioè io gliel'ho proprio detto: guarda, tu fai questa scelta se tu lo vuoi fare come vita, poi noi siamo un'altra cosa che verrà di conseguenza. Sara, però scusami, tu che ti sento anche da come scrivi, sei una persona, diciamo, mi pari molto molto razionale, no? Tu ti sarai fatta, ti sì. sarai fatta due calcoli sul perché sì. sei così affascinata da questo, da questi uomini, insomma, che hanno una divisa molto particolare. Sì, sì, ma io ho anche la mia. La tua risposta. Ma io sapevo anche prima di innamorarmi di questa persona, di cui sono innamorata adesso, con questa avendo una storia bellissima, che all'85% mi sarei mi sarei innamorata di questa persona. Io ho scusami, non ho capito. Cioè, quando l'hai conosciuto hai capito che ti saresti innamorata? Sì, io sono stata lontana per un anno perché sapevo che non dovevo innamorarmi di lui. Ok, vabbè, però questo in realtà è anche questo è un doppio salto mortale carpiato, perché tu decidi di non fare una cosa che sai che sta per accadere, che poi è così caotica come l'amore, quindi in realtà ci hai provato ma non ce l'hai fatta. Tipo, sì, esatto. Però, torniamo al discorso di prima, che cos'ha il seminarista? Perché immagino che abbia un fascino, giusto? No, non è il seminarista, il fatto è che una persona che condivide con me una cosa molto importante, come dicevo prima, come la religione, e in particolare, in entrambi i casi, condividevano le esperienze che io facevo in oratorio, perché erano partecipi anche loro di queste esperienze. Ok, anche se Sherlock Holmes a Watson direbbe: guarda Watson, una cosa è una cosa, due sono una prova, due indizi cominciano ad essere una prova, quindi... No, però io anche conosco anche delle altre persone che sono in seminario di cui non mi sono innamorata. Potrei... Mi auguro, Sara, che tu non ti innamori proprio di tutti i seminaristi che incontri. Sei fidanzata con lui però adesso, state insieme? Sì, sì. Bene, bene. Sì. E invece Daniele, chiamiamolo così, l'hai più visto, lo incontri... È da tanto che non lo vedo. È da tanto. E che cosa, diciamo, quel tipo di storia lì ti ha insegnato qualcosa? Il fatto che fosse... Io l'ho definito impossibile, perché è semplicemente un termine facile da dire, no? Perché non credo che sia sbagliato, ecco, come lo dicevi tu. Semplicemente molto difficile, diciamo così. Ti ha insegnato qualcosa di particolare, a parte semplicemente ripeterlo, oppure oppure è semplicemente una storia come un'altra da cui sei uscita? Però la realtà mi ha insegnato proprio a non ripetere quel tipo di amore lì, perché io adesso sto avendo una storia, innanzitutto, che è possibile e con un altro tipo di persona. Okay. Quello invece, come dicevo nella storia, era un amore stampella. Quindi io ero la stampella della situazione, che nel momento in cui era necessario c'ero, se non era necessario, se non era il momento, non c'ero. Ma... che non è assolutamente il tipo di storia che sto vivendo adesso. Brava, ma lui sappiamo se adesso fa, come dire, ha concluso la strada seminarista, se sta di... No, deve ancora concludere gli studi. Però l'ha proseguita? Sì, sì. Ah, ok, perfetto. Sara, che cosa vuoi fare da grande? La giornalista. Che tipo di giornalista? Politica? No. Io attualmente collaboro per un sito di informazione locale, mi piacerebbe, non so, seguire gli eventi o comunque il tipo di vita culturale delle città. Ok, mi verrebbe da dire che è più facile all'Osservatore Romano, però sarebbe sarebbe veramente una stupidaggine, Sara, infatti fai come se non l'avessi detto. Io ti ringrazio per la storia e ti faccio tornare a studiare, in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao Sara, buona giornata. Ciao, ciao, grazie, ciao ciao. Mi scrivono: mia cugina di primo grado, sembrava impossibile e ora siamo sposati da 15 anni e due figli meravigliosi. Esistono amori impossibili? Non lo so, forse no. Voi siete qui. È una bella ragazza Sara, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito della radio, radio24.it, alla pagina di Voi siete qui. È seduta in un tardo pomeriggio d'estate, direi, dalla luce che si vede, dalle ombre lunghe che lascia il suo corpo, seduta, vi dicevo, su un muretto a secco bianco, potrebbe essere in Puglia o in Grecia. Anche ad Arona, dove abita, però quel muretto bianco lì a Romentino non c'è, Margherita, un muretto così, è o in Puglia o in Sicilia o in Grecia. E lei ha i capelli bagnati, lunghi, deve aver fatto da poco il bagno o la doccia, ma immagino il bagno al mare. È su un vestitino leggero leggero, estivo a fiori. Impossibile, aggettivo e sostantivo maschile. Non consentito entro o oltre i limiti della normalità, che non può compiersi né attuarsi, che non si può sopportare, intollerabile. Aggettivo, in matematica, che non ammette soluzioni. Nel calcolo delle probabilità, evento impossibile, quello che non può mai verificarsi, che ha cioè probabilità zero. In diritto, reato impossibile quando la punibilità è esclusa, in quanto per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, non può aver luogo l'evento dannoso o pericoloso. Ciò che non è possibile. Etimo dal latino tardo impossibilis, derivato di possibilis, possibile col prefisso in, data fine secolo XIII. Ringrazio Sara che mi scrive subito al 349-238-6666. Sì, sono in Puglia. Questo per il mio ego piccolo è ottimo cibo. 349-238-6666. Sono arrivati diversi messaggi a proposito di amori impossibili. Ce n'è uno però che non si firma e dice: ciao Matteo, sto guidando, cazzo. Non capisco se ce l'ha con sé perché sta guidando o perché non può scrivere o perché vorrebbe non guidare. Comunque, sono nel bel mezzo di una storia impossibile. Io ho 32 anni. Lei 22, io como, lei Cina. Ieri mi ha chiesto per l'ennesima volta se voglio passare tutta la vita con lei. Cosa faccio? A presto. Allora, a parte che bisognerebbe aprire un capitolo intero, continua a non essere la posta del cuore, però non capisco delle cose. Lei è in Cina o è, cioè, nel senso, è italiana ed è in Cina perché sta studiando, o è cinese ed è in Cina? Nel senso che i cinesi sono in Cina, ci sono anche in Italia, però tu dici che lei è in Cina e tu sei a Como. Poi l'età non mi sembra un grosso problema, nel senso sono 10 anni di differenza. Ci sono persone che hanno storie anche di differenze di età molto più ampie. Se vuoi passare tutta la vita con lei, non lo so, non potrei chiaramente tenere una rubrica di posta del cuore, questo è chiaro. E poi ancora Mario scrive: credo che Freida Pinto non mi voglia sposare, ma sono innamorato di lei. Freida Pinto è l'attrice di The Millionaire, quella indiana, giusto? Ma anche Paz Vega, il mio amore è impossibile, è Paz Vega, che bello vederla nei film. E poi qualcuno, sempre sul profilo Twitter, quelli simpatici, mi scrive: la subcomandante T'Pol di Star Trek non può innamorarsi perché i vulcaniani impongono la soppressione di ogni emozione. Grazie mille. Oggi raccontavamo appunto storie di amori impossibili ed è arrivata una mail a voi siete qui, @radio24.it. Dobbiamo ricordarlo ogni tanto, perché a parte che è la mail a cui mandare le storie, ma soprattutto perché sta perdendo di dignità la mail ormai. Siamo su di Twitter, di Facebook, e invece la mail continua a essere un modo per scriversi le cose, anche se poi spesso non le si leggono. Però abbiamo anche una mail, voi siete qui, @radio24.it. A questa mail Paolo ha scritto una lettera che ricorda moltissimo Il diavolo in corpo. Non so se l'avete visto o se l'avete letto. È la storia di un ragazzo, di un giovane ragazzo, che è lui, è il protagonista, l'autore, che è Rediger, Raymond Rediger, che si innamora di una donna più grande. È molto simile a quella storia, e comunque è una storia molto interessante. Mi chiamo Paolo, scrivo dalla provincia di Cuneo. Sono sposato e amo follemente mia moglie. Il primo amore però fu un altro. E fu un amore talmente impossibile che addirittura mi fece quasi convincere che l'amore fosse un sentimento irrealizzabile. Per tutta l'infanzia passai le mie vacanze estive in un paesino ligure, dove i miei genitori affittavano una piccola casa. Nel tipico stile italiano, io e mio fratello, finite le scuole, ci andavamo insieme a mia madre, e mio padre ci raggiungeva al mese di agosto. Come sempre accade in questi casi, in quei mesi estivi si formava un gruppo di ragazzi molto affiatato, che spesso rendeva affiatati anche i genitori. Così mia mamma divenne molto amica della mamma di Claudio, un ragazzo più giovane di me, di 5 o 6 anni. Io ne avevo 17, quando vidi che sua mamma, che di anni ne aveva 34, si era, per così dire, accorta di me. Era una donna molto bella, che adesso definirei una ragazza, ma che all'epoca, dall'alto dei suoi 34 anni, per me era una donna, a tutti gli effetti. Si fermava a parlare con me spesso sulla spiaggia e mi raccontava in un modo diverso da come facevano le altre mamme della sua vita, di lei, di suo figlio. Ma soprattutto io parlavo in modo diverso da come parlavo con le altre signore. Chiacchieravamo di tutto, come se avessimo voglia di ascoltarci a vicenda. Un giorno andai a cercare suo figlio a casa e la trovai che piangeva. Le chiesi cosa ci fosse che non andava e lei non mi rispose. E lì feci una cosa che non avevo mai fatto con quella sicurezza. La baciai. Lei mi allontanò stupita, salvo poi continuare a baciarmi. Mi sentivo un uomo con lei e la cercavo in continuazione. Ero terrorizzato, ovviamente, che mia madre lo venisse a scoprire, e lei lo era più di me. Non voleva far nascere uno scandalo, diceva, e continuava a ripetere che non dovevamo farlo, che era sbagliato. Ricordo che odiavo suo marito. Quando arrivava il venerdì sera sparivo perché non volevo incrociarlo. E quando il giorno dopo in spiaggia con il gommone arrivava per partire poi per le gite alle spiagge vicine, Io meditavo di bucarglielo quel gommone e starmelo a vedere che affondava lentamente. Quando finì l'estate ero disperato. Avevo voglia di vederla o di sentirla, ma il telefono di casa non era sfruttabile. Anche se una mattina la chiamai dalla cabina telefonica di fronte alla scuola. Lei era felice di sentirmi e io ero pronto a mollare tutto e scappare con lei. E lei mi rispose con una frase che non dimenticherò mai. Mi disse: non tutte le cose che accadono sono possibili. Quell'amore fu forte, forse immaturo, ma splendido e purtroppo anche impossibile. Non la vedi più. Paolo. Voi siete qui R24, il profilo Twitter. Emanuele scrive: amore impossibile, l'hashtag ovviamente era amore impossibile. Giulia, capelli rossi, bellissima, peccato fosse già fidanzata con Kenny il guerriero, adesso mia figlia si chiama Giulia. E rimanendo in ambito di film, di fumetti, vabbè, qualcuno mi dice Marco, Nadia del mistero della pietra azzurra, io a 11 anni guardai questo film che si chiamava Momo di Michael Ende, 11-12 anni, era dell'86, e mi innamorai perdutamente di quell'attrice che era una bambina che faceva Momo. Mandai anche una lettera, credo alla casa di produzione, era un film tedesco, e loro mi risposero con una cartolina, sapete le cartoline già quelle prestampate, con una firma finta di lei. Una malinconia che mi pervase per giorni, anche se mi piacerebbe ritrovarla quella cartolina. Lei si chiamava e si chiama Radost Bokel, credo sia tedesca, però di origini probabilmente turche, perché ha la pelle un po' più scura di come sono di solito i tedeschi, e ho scoperto da poco che è sposata col musicista statunitense Tyler Woods, che non so chi sia, ma chi se ne frega. Ma la cosa terribile è che sono andato a vedere le foto, me la ricordavo una bambina e non è più lei. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Filippo Aureggi al mixer, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Sara, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Cristina Quaini, abito Villa Imprenta in provincia di Mantova. La storia di domani parla di me e anche di mia mamma. Questa è la mia storia e io sono qui.